un modo di far politica un po' vecchia maniera, che è quello che stiamo di fatto sposando noi, di essere presenti sul territorio, di essere sempre in mezzo alla gente, di dare delle risposte immediate. E quindi la politica è fatta, quella della vecchia DC per capirci, quella della DC di una volta, che era fatta veramente al servizio della gente, e questo viene apprezzato. Sta paragonando la Lega alla vecchia DC? Alla vecchia DC, quella positiva, quella di un tempo, quella che era nata proprio in mezzo alle classi contadine, a classi meno abbienti, a chi aveva bisogno, e a quelle categorie la DC dava risposte come noi oggi diamo risposte ai cittadini in maniera diretta, perché anche l'età giovane, ma soprattutto il modo di fare, cioè il fatto di essere sempre in mezzo alla gente, sempre presenti, risposte subito e risposte a tutti.